Se sul tema dell'autobiografia, vi ricordate 2 settimane fa abbiamo presentato Lucio Demetrio e presentando Demetrio ho affondato le radici di questa questione degli anni 60. La trasmissione televisiva non è mai troppo tardi, il problema di recuperare il deficit di alfabetizzazione che esisteva in Italia in quegli anni. E poi dopo ho parlato degli anni 70, dei corsi per le 150 ore, dove in un clima politico diverso, con un obiettivo diverso, che era quello non di recuperare l'alfabetizzazione, ma di raggiungere il diploma della scuola dell'obbligo, della scuola media, che era una riforma degli anni 60, si sono organizzati in Italia centinaia e centinaia di corsi ai quali partecipavano queste persone, questi adulti che per questioni biografiche non avevano potuto raggiungere la licenza media, in un clima molto politicizzato, molto sindacalizzato. In questo clima molto spesso gli insegnanti si rapportavano con i corsisti in maniera diversa, non cercavano di insegnare la storia, di travasare il sapere storico, ma cercavano di attivare la memoria storica dei corsisti, che erano appunto, ripeto, degli adulti, per fare in modo che si rendessero conto che ognuno di noi poi è portatore della propria storia e ha delle radici ben piantate nella storia. In questo periodo, negli anni 70, quindi l'educazione degli adulti ha subito veramente un incremento notevole e anche la ricerca storica del genere autobiografico ha avuto dei momenti molto, molto importanti. Negli anni 70 questo gruppo, un gruppo di insegnanti di Rovereto si è radicato in questo clima delle 150 ore, in questo argomento della ricerca autobiografica e ha cercato di incentivare la raccolta di documentazioni, testimonianze, non solo orali. Voi pensate, ad esempio, a Rovereto, la città che durante la prima guerra mondiale è stata proprio una città sul fronte, no? Quindi non, ecco, per dire, nessun luogo dell'Alto Adige ha avuto un rapporto con la guerra, con la prima guerra mondiale, così come invece è accaduto nella zona di Rovereto. E pensate, ad esempio, a vicende particolari di famiglie dove magari c'erano fratelli che hanno fatto la guerra mondiale su fronti opposti, insomma, no? Quindi vicende familiari particolarmente tragiche, intrecciate con una storia molto, molto grande. In questo decennio a Rovereto si è costituito un gruppo di lavoro che, partendo dall'esperienza delle 150 ore, ha fatto delle riflessioni sull'educazione permanente e ha cominciato a raccogliere quindi testimonianze, i diari di guerra dei soldati, come dicevo l'altra volta, magari soldati trentini che proprio perché erano visti dal potere come persone magari così di dubbia fede patriottica, magari venivano mandati sui fronti più pericolosi e tornavano dalla prima guerra mondiale, magari 10 anni dopo, no? Cioè trentini che sono andati a finire in Cina, sono tornati nel loro paese solamente a metà degli anni 20. Questo gruppo di lavoro ha cominciato a pubblicare una rivista che si intitolava Materiale di lavoro, che ha avuto 2 serie. La prima serie con un aspetto tipografico molto da anni 70, ciclo stilato, una seconda serie tipograficamente molto più elegante, che per circa una decina d'anni ha raccolto, Ragioni per di ragioni di soldi. finanziamento, ha pubblicato questa rivista che è stata un punto di riferimento a livello nazionale. E questa rivista non esiste più da circa 20 anni, però questi ex giovani storici, adesso maturi storici, ha poi continuato a lavorare chi nel Museo della Guerra di Rovereto, come Camillo Zadra, chi si è dato prima all'aspetto istituzionale, come Fabrizio Rasera, che è diventato assessore alla cultura a Rovereto negli anni 90, chi si è poi dopo specializzato in questo interessantissimo esperimento di, come definirlo, laboratorio di ricerca azione, insomma, no? Che è il laboratorio di storia di Rovereto, che è Diego Leoni. E già una decina di anni fa abbiamo cercato di mettere in piedi un gruppo di lavoro che si occupasse di storia locale, e mi ricordo con alcuni dei presenti, Fabrizio Miori, Tiziano Rosani e Carlo Romeo, così eravamo andati a Rovereto appunto a incontrare questo gruppo di persone animate, coordinate da Diego Leoni. Poi però la cosa non è andata così come avrebbe dovuto. Ogni tanto ci sono progetti, no? So che anche al Centro Culturale del Cristallo ultimamente c'è un gruppo che vorrebbe mettere in piedi un gruppo di ricerca di questo tipo. Vedremo un po' come andrà a finire questa vicenda. E do quindi la parola a Diego Leoni, che ci parlerà di questa esperienza che va ormai avanti Dall'89. dall'89, quindi da 17, da 18 anni. Come diceva Valeria prima, nell'altra sala abbiamo anche un collegamento internet, dovesse esserci questa necessità, potremmo trasferirci, visto che non siamo tantissimi, c'è il posto anche di là. Ecco, e prego. di qua, prendi di là. Ma posso anche parlare senza, no, o ci vuole questo? La prossima volta che vengo vi regalo un'asta, così mettiamo il microfono sull'asta e non occorre tenerlo. E, dunque, intanto vorrei anche aggiungere un'altra cosa, un'altra informazione di carattere autobiografico. Cioè, io sono un insegnante, sono sempre stato un insegnante di scuola media. E quindi ho operato all'interno di questo laboratorio di storia non da storico professionista, non da storico proveniente dall'accademia, dall'università, ma da storico insegnante, quindi da ricercatore che occupa il suo tempo libero per intrecciare la ricerca storica con l'insegnamento. E devo dire che nel lontano e mitico 1989, mitico non perché è nato il laboratorio di storia, ma perché mi pare che sia caduto il muro di Berlino, l'allora assessore alla cultura, no, non alla cultura, assessore ai servizi sociali, una donna molto combattiva, appartenente alla Democrazia Cristiana, che si chiamava Sabina Chiasera, consigliere comunale, ebbe questa strana idea, questa strana intuizione di chiedere ad alcuni di noi che invece eravamo, appartenevamo a un'area che era politicamente contrapposta alla sua, e poi avevamo alle spalle questa esperienza delle 150 ore, che era stata comunque un'esperienza oppositiva in qualche modo, e poi la rivista Materiali di Lavoro, e poi tante altre stramberie che poco avevano a che fare con l'amministrazione della città, di affidare a noi il progetto di un ciclo di conferenze sulla storia della città all'interno dell'università della terza età. Allora si chiamava così, poi ha cambiato mille nomi, non so come si chiami adesso qua da voi, e se c'è l'università della terza età. Sì, che si chiama UPAD. Vabbè, UPAD mi fa venire in mente l'UMPA, vabbè, ma la protezione antiaerea, vabbè. Da noi ha cambiato, a un certo punto è diventata università dell'età libera, si capisce da che cosa, comunque libera, adesso è dell'età libera e del tempo disponibile. Vabbè, comunque allora si chiamava molto più semplicemente Università della Terza Età, e noi, così un po' perplessi ovviamente, accettammo questa proposta e anche questa sfida, consapevoli che presentava qualche insidia, insomma, oltre che qualche fascino, no, di novità. E organizzammo questa serie di conferenze sulla storia della città fra i due imperi, credo che il titolo fosse proprio questo, Rovereto in bianco e nero, una città fra due imperi, quindi dall'impero austro-ungarico all'impero fascista, insomma. Quindi dal 1919 al 1939. Dopodiché, finito questo ciclo di conferenza, che fu molto seguito, molto affollato, molto, molto partecipato, anche con molta curiosità, perché molti dei partecipanti erano testimoni diretti di quel periodo, avevano vissuto quel periodo, e erano curiosi di vedere che cosa noi, che eravamo nati proprio, eravamo la generazione che aveva contestato i padri che quel periodo avevano vissuto, saremmo andati a dire. E con questo misto di reciproca diffidenza, un po' di reciproca curiosità, studiandoci a vicenda, facemmo questa prima iniziativa, che ebbe, non finì lì, ebbe un seguito, che fu un seguito poi molto, molto stimolante e molto ricco di cose fatte. Cioè costituimmo un gruppo di ricerca con i partecipanti a queste conferenze, che erano poi iscritti all'Università della Terza Età, con lo scopo di continuare sul tema, cioè sull'argomento che era appunto Rovereto, la Rovereto fascista, la Rovereto del 19 al 39, però utilizzando, raccogliendo insomma innanzitutto le testimonianze di questi testimoni, di questi partecipanti al corso, e poi se era possibile allargare l'orizzonte anche ad altri testimoni, eccetera. E questo accade nel 1990, e da lì poi questo piccolo torrente, questo piccolo corso d'acqua si è trasformato in una sorta di fiume in piena, e il risultato visibile, materiale, insomma sfogliabile di questo nostro lavoro, parte perlomeno, lo vedete, l'abbiamo messo in esposizione. Sono quei volumoni che ho messo proprio in ordine cronologico come uscita di stampa, quei volumoni che vanno appunto dalla Rovereto 1939, frammenti di un'autobiografia della città, fino al Rovereto durante la Seconda Guerra Mondiale, la Rovereto durante la Prima Guerra Mondiale, e poi questo volume con la copertina rossa, che tende al rosso, intitolato Il popolo scomparso, che invece è dedicato alla storia del Trentino e dei Trentini nella Prima Guerra Mondiale. Quindi non più in una dimensione cittadina, ma in una dimensione provinciale, che è da qualche anno la cifra, diciamo, che contraddistingue, la caratteristica che contraddistingue il lavoro di ricerca e di elaborazione del laboratorio di storia di Rovereto, che non è più un laboratorio cittadino, cioè legato esclusivamente, semplicemente, alla storia e alla memoria della città di Rovereto, ma ha allargato i suoi orizzonti e anche la sua area di indagine alla provincia. E quindi il laboratorio non è più un laboratorio i cui frequentanti, i cui partecipanti sono esclusivamente roveretani, ma abbiamo trentini, abbiamo altri che provengono da altre realtà della provincia di Trento, ma è ancor più, e vorrei questo proprio sottolinearlo perché è una novità un po' anche per noi, è una cosa recente, anche dei collegamenti, dei rapporti di collaborazione con molti gruppi di ricerca locali e anche degli studiosi locali, lì dove non ci sono dei gruppi organizzati, che collaborano con noi oggi, in questo momento, ad una ricerca, posso definirla senza vanterie, insomma colossale, sulla Seconda Guerra Mondiale, cioè il Trentino e i Trentini nella Seconda Guerra Mondiale, che dovrebbe sfociare in un libro gemello del Popolo Scomparso e forse anche a qualcosa di più. Ora, come è potuto accadere tutto questo? Beh, è potuto accadere perché questa confluenza, questa miscela fra un gruppo di giovani ricercatori, di giovani storici roveretani, che avevano nel loro bagaglio culturale una preparazione storica antiaccademica per eccellenza, perché legati alla storia sociale, legati alla storia orale, legati appunto alle 150 ore, eccetera, con un gruppo di testimoni che poi diventeranno testimoni ricercatori, non soltanto su se stessi, ma anche sulla comunità dentro la quale loro vivevano e vivono, è stata una miscela esplosiva in senso positivo. E ha dato il via, ha messo in moto questo motore di ricerca che finora non si è mai fermato e che è un motore straordinario, ecco. Perché straordinario? Intanto perché è fortemente radicato nella comunità. I partecipanti al laboratorio sono ricercatori perché grazie alle loro conoscenze, grazie al loro radicamento nel quartiere, nei quartieri, nei paesi, eccetera, riescono a portare dentro il laboratorio molto di più di quello che potrebbe fare un singolo ricercatore, immaginate, non so, l'antropologo che viene a fare la ricerca sui selvaggi del Trentino. Ecco, è quindi una ricerca che parte dall'interno del ventre della città o del ventre del Trentino. È per questo molto più produttiva, perché voi sapete perfettamente che qualsiasi testimone, qualsiasi prestatore, se non ha delle forti garanzie sull'uso che viene fatto della sua testimonianza, sull'uso che viene fatto di quello che lui, del documento che lui ti consegna, che sia una fotografia o che sia un'autobiografia, un diario, delle lettere o qualsiasi altra cosa, difficilmente lui apre i cassetti, no? In cui sono preziosamente e pietosamente custoditi i ricordi della sua famiglia o i ricordi della sua vita, insomma. Questa rete, insomma, di collaborazioni, questa rete di conoscenze che il laboratorio è in grado di fornire a se stesso, rende il laboratorio un luogo di raccolta, un luogo di arrivo, insomma, di una massa enorme di documenti. Noi abbiamo calcolato, ma il calcolo approssimativo, che in questi anni il laboratorio abbia raccolto circa dalle 25.000 alle 30.000 fotografie, tutte catalogate con i criteri suggeriti, criteri molto semplici, suggeriti dalla provincia di Trento, dall'archivio fotografico provinciale, che sono in parte custoditi ancora presso il laboratorio di storia e in parte confluiti alla Biblioteca Civica di Rovereto, dove ci sono degli archivi a nome del laboratorio di storia, per esempio sulla Rovereto 1939. Poi perché questo soggetto è un soggetto collettivo, è un ricercatore collettivo, no? Adesso è anche un ricercatore collettivo diffuso, se vogliamo definirlo così, nel senso che non è neanche più legato alla città, come dicevo prima, ma è diffuso, è esteso su tutto il territorio provinciale. E dunque, non so, i gangli di questa ricerca, i gangli di questo apparato di ricerca si estendono sempre di più, si approfondiscono, entrano sempre più in profondità nel corpo della comunità trentina. E poi perché il laboratorio di storia è riuscito in una cosa che, a cui noi teniamo molto, che è un'idea molto inglese. Io ricordo che negli anni eroici delle 150 ore dei corsi per lavoratori, uno dei nostri punti di riferimento non italiano erano alcune scuole storiche inglesi legate soprattutto ai quartieri o ai paesi, ai villaggi di minatori inglesi, che raccoglievano testimonianze, storie di vita, documenti di altro genere, con l'idea di restituirli alla comunità. Quindi non di rubarli, di accaparrarsene per fare poi un libro che serve come medaglietta, no? o titolo di merito per fare carriera nell'accademia universitaria, ma proprio con l'intento di restituirlo alla comunità sotto forma di racconto, ecco, o sotto forma comunque di un qualcosa che possa essere poi dalla comunità usato al fine di riconoscersi, di guardarsi criticamente, di guardare indietro, ma con una capacità critica, autocritica, no? Con una capacità di discernimento che è molto maggiore che non, no, quello che uno può immaginare di se stesso, della sua storia, se la guardasse così da singolo. Ecco, questa idea della restituzione è un'idea centrale per noi e devo dire che è stata accolta in pieno non soltanto da coloro che frequentano il laboratorio e che ci lavorano, ma anche dalla comunità dentro la quale lavora il laboratorio, perché ormai c'è una simbiosi, cioè a Rovereto non dico che tutti, insomma, ma moltissimi conoscono il laboratorio di storia, anche perché il laboratorio di storia appunto è servito da macchina, da veicolo di restituzione di questa memoria che viene consegnata al laboratorio sotto forma di frammenti, in qualche caso anche proprio piccoli frammenti, non so, due lettere, 10 lettere, una testimonianza, una fotografia, no? Adesso penso per esempio alla Seconda Guerra Mondiale, a tutti questi piccoli frammenti che stiamo raccogliendo e che ci vengono consegnati per esempio sulla deportazione, no? E che hanno a che fare spesso anche con Bolzano, questi biglietti buttati dal treno, eccetera, conservati qualche volta anche ormai con indifferenza, perché non si quasi non ci si ricorda neanche più perché sono lì, chi li ha scritti, a che cosa servivano, che cosa c'era dietro. Ecco, allora la consegna di questi frammenti di memoria, il laboratorio è il veicolo della restituzione alla comunità sotto forma di grandi racconti, cioè sotto forma di un racconto che da chiunque può essere letto, da chiunque può essere guardato, perché sono racconti che usano soprattutto l'immagine fotografica. Voi poi se sfogliate quei libri, ma sfogliateli però con molta diligenza perché sono miei e sono introvabili, quindi, direi che in quasi, se voi andate nelle case dei Roveretani, almeno uno di quei libri lo vedete, lo trovate, e questo ovviamente rende popolare, ma in senso, no, in senso non televisivo del termine, popolare il laboratorio e dà una garanzia di riuscita alle campagne di raccolta che noi facciamo. Perché tutti si fidano, sanno dove andrà a finire questo materiale, sanno soprattutto che questo materiale verrà non soltanto restituito materialmente, nel senso che le lettere, se non ci vengono donate, ovviamente dopo essere state fotocopiate o insomma riprodotte in qualche modo vengono restituite, ma anche proprio sotto forma di racconto, di grande racconto, che in qualche caso è la grande mostra. Noi abbiamo organizzato per esempio 2 o 3 grandi mostre, ma anche sotto forma di testo, sotto forma di libro. E il tutto va a concorrere nella, diciamo, nella ricostruzione, no? in forma molto, molto critica, in forma molto, molto, molto sottile, no? Ma anche in forma molto, molto accessibile, di questa storia che accennava prima Giorgio. È una storia molto complessa, è una storia molto lacerata, no? e ha prodotto una memoria altrettanto lacerata, perché su questa memoria, voi sapete, si sono sovrapposti insomma regimi, stati, apparati di propaganda e apparati di governo che hanno sempre tentato e continuano a tentare di forzarla, di incanalarla in sensi e in direzioni insomma che poco hanno a che fare con la vita della gente. Ecco, oggi il laboratorio è costituito da circa 15 persone, io lo coordino. Abbiamo un sito, da quest'anno abbiamo anche un sito internet che ci serve per farci conoscere all'esterno, cioè all'esterno, insomma, al mondo intero, ecco, e che ci serve proprio anche come strumento di pubblicizzazione delle nostre iniziative. Stiamo appunto lavorando sulla Seconda Guerra Mondiale e insomma, vi inviterei a venire a vedere, perché non è neanche poi tanto facile spiegare come questa accozzaglia di gente, no? Perché insomma è gente di estrazione molto diversa, no? Pensionati, ex operai, ex ferrovieri, casalinghe, no? Ecco, con un unico coordinatore, cioè un unico personaggio lì dentro, un'unica persona che ha una formazione storica, che sono io, riesce a mettere in comunicazione tutte queste cose, a organizzare il lavoro, no? Ecco. E, diciamo che è uno spazio ideale per lavorarci, nel senso che chiunque lì dentro trova una propria collocazione, insomma, no? Cioè, c'è chi raccoglie le foto, chi le sistema in modo, le ordina a seconda dei soggetti, degli argomenti, chi ne fa le didascalie, chi le cataloga, no? C'è chi raccoglie la testimonianza, c'è chi gira a raccogliere altre cose, insomma, c'è chi lavora al sito internet, no? E poi naturalmente ci sono molte discussioni fra di noi, ci sono molti confronti, ripeto che molti di loro sono, proprio perché sono in età avanzata, no? Lo erano già in qualche modo, erano tutti iscritti all'Università della Terza Età, quindi nell'89 erano tutti pensionati. È vero che allora, no, si andava in pensione abbastanza, si poteva andare in pensione anche piuttosto giovani, però insomma devo dire che molti di loro li abbiamo anche persi lungo questi 18 anni, no? Nel senso che sono morti, insomma. Ecco, c'è stato ovviamente un ricambio, ma l'età media è sempre un'età media piuttosto alta. Molti di loro sono testimoni, no? o da ragazzini o da adolescenti, in qualche caso anche da adulti, per esempio della Seconda Guerra Mondiale, e quindi c'è un continuo confronto, un continuo scambio di impressioni, di idee, eccetera, no? Al laboratorio arrivano testimoni, al laboratorio ogni tanto invitiamo qualche storico a confrontarsi con noi, no? Facciamo circolare della letteratura storica, dei libri che ci sembrano particolarmente interessanti per noi. Insomma, è una vera e propria, Cibelli la chiamerebbe, officina della storia, insomma, no? Ecco, dove si usano le mani, si usa la testa, insomma, ma si usa tutto quello che può essere messo in campo da un soggetto collettivo di ricerca storica e che io credo nessun ricercatore, nessun storico da solo potrebbe mai fare. Perché io molte volte mi sono posto proprio questo problema da storico, cioè, ma io sarei mai riuscito, riuscirei mai a fare una cosa del genere? E la mia risposta è sempre stata no. E questo ovviamente mi ha dato anche la motivazione, la forza, l'entusiasmo, insomma, per continuare a starci dentro. Mentre qualcun altro se ne è uscito, insomma, no, Rasera, Zadra, Antonelli, eccetera. No, Antonelli adesso collabora dall'esterno, io sono sempre rimasto dentro e sono invecchiato lì assieme a loro, insomma, ecco, quindi... Ecco, questo è quanto io potevo dirvi così, insomma, ecco, raccontarvi così, come appunto, che questa è una storia in fondo. Se voi volete, avete delle cose da chiedere, io volentieri risponderei, insomma, a qualche vostra curiosità, a qualche vostra domanda. Poi, in realtà del laboratorio di storia si può parlare per ore, insomma, no? Perché è stato anche al centro proprio di interessi non locali, no? Ecco. Soprattutto perché, insomma, queste produzioni, no? Cioè il risultato di questi lavori sono altrettanto eccentrici rispetto, no? Rispetto alla produzione storiografica quantomeno italiana, insomma. È una cosa, ha quasi creato un genere, insomma, se voi andate a leggere qualcosa che non abbiamo scritto noi, no? Perché non ci sogneremo mai di farlo, ma qualche storico che ha lavorato, no? Per cercare di capire che cosa rappresenti questo lavoro, che cosa rappresentino nell'ambito della storiografia italiana queste opere, insomma, voi vedete che c'è un po' di difficoltà a definirlo, insomma, ma è proprio perché si autodefinisce quasi come un genere, no? Un genere storiografico, con una sua autonomia, con una sua cifra stilistica. Questo, non so, ci ha portati per esempio ad avere una sensibilità nel campo della fotografia, dell'immagine, insomma, che non avevamo all'inizio. Cioè all'inizio eravamo molto più sprovveduti, no? Avevamo puntato meno sul documento fotografico, adesso invece, no? Abbiamo anche perché abbiamo esteso la rete dei collaboratori, abbiamo una raccolta, insomma, no? Una specie di rete a strascico sulla comunità trentina, per cui dentro questa rete, no, si impigliano migliaia di immagini, migliaia di fotografie, che dopo noi sistemiamo in un certo modo all'interno di un lavoro interpretativo sul periodo sul quale stiamo lavorando. E poi la cosa ha assunto anche una dimensione più ampia, nel senso che soprattutto dal popolo scomparso, e il popolo scomparso, ne accennava prima delle donne, racconta, insomma, la storia del Trentino e dei Trentini nella Prima Guerra Mondiale, ed è una storia mondo, no? Ecco, il libro dedicato a Rovereto nella Prima Guerra Mondiale ha proprio come titolo La città mondo, Perché la città mondo? Perché Rovereto dal 15 in poi non esiste più di fatto come entità amministrativa, non è più abitata, no? La popolazione viene sfollata, vengono evacuati, deportati un po' di qua, un po' di là, alcuni di là verso l'impero, altri addirittura verso il regno, i soldati vanno in Galizia, no? Insomma, Rovereto non c'è più. E i roveretani li trovi invece dappertutto. In quel periodo che non è il periodo, guardate la datazione del popolo scomparso, non è 1914-1918, tanto meno 1915-18 come ancora adesso qualche volta si sente dire, è 14-20, perché appunto nel 20 la storia dei roveretani in guerra non è ancora finita. Soprattutto per gli ex prigionieri che nel 20 vagano ancora nella sterminata Russia o in Cina o stanno ritornando magari in Italia attraverso gli Stati Uniti d'America o cose del genere. Ecco. E quindi la ricerca su una storia così complessa, che è una storia mondiale, non poteva essere limitata al territorio provinciale, e quindi abbiamo attivato una serie di collaborazioni attraverso i due musei di Trento Rovereto in particolare, che fossero capaci di indagare anche negli archivi internazionali, cioè negli archivi non italiani, oltre che non provinciali, anche non italiani. Per cui, non so, per esempio, per il lavoro che stiamo facendo adesso sulla Seconda Guerra Mondiale, noi abbiamo un paio di collaboratori che hanno fatto ricerca negli archivi tedeschi, negli archivi inglesi, negli archivi americani, no? Eccetera, eccetera, perché il tutto è supportato sempre di più, perché sempre di più ha acquisito forza questo progetto dalla provincia autonoma di Trento. Che grazie alle sue risorse che sembrano infinite, no, riesce per nostra fortuna anche a pagare questi collaboratori esterni. Ecco. E Rovereto e il Trentino diventano e si sono imposti a livello, perlomeno a livello nazionale, come un caso, cioè come una sorta di metafora, no? Cioè, che senso ha continuare a lavorare sul Rovereto, sul Trentino? Cioè, non perché noi siamo particolarmente, sì, siamo legati in modo molto forte alla nostra città, alla nostra terra, ci mancherebbe altro, però non è un interesse localistico il nostro, cioè di storia locale intesa nel senso più deteriore, più limitativo del termine, è proprio l'idea di ricostruire una storia che è metafora della grande storia. Per cui la prossima opera in due volumi di Einaudi, curata da uno storico e una storica francese, e da Antonio Gibelli, che è il più autorevole storico della prima guerra mondiale, se mi snenghi fosse italiano, c'è un capitolo intitolato Il caso Trentino. E se c'è, è perché alle spalle c'è il lavoro che abbiamo fatto noi e altri assieme a noi, insomma, che fanno riferimento ai due musei di Trento Rovereto, ai due musei storici di Trento Rovereto, e perché hanno imposto all'attenzione degli storici italiani e non solo questa metafora, ecco, che è la metafora roveretana e trentina. Ecco. Che dire poi ancora? Due cose aggiungo. Nel corso di questa ricerca, di questo lungo lavoro di ricerca, sono affiorati moltissimi materiali autobiografici e memorialistici. Diari, lettere, memorie scritte successivamente. Tanto da creare anche lì un caso, no? Perché tutto questo materiale, che non è tutto arrivato tramite il laboratorio di storia, ma molto arrivato proprio tramite il laboratorio di storia, oggi è conservato in una sezione apposita del Museo Storico di Trento che si chiama Archivio della Scrittura Popolare e che raccoglie a tutt'oggi circa 600 documenti di questo genere. 550, ma ogni giorno affluisce qualche cosa, quindi presumo che sia ormai, siamo ormai verso i 600, cioè 600 fra diari, epistolari, memorie ed altre forme di memorialistica popolare. E i due musei di Trento Rovereto hanno da qualche anno una collana che vedete lì, sono quei libricini, no? Rettangolari, che si intitola appunto Scritture di guerra, che oggi è arrivata al decimo volume e che raccoglie diari e memorie di soldati o profughi o profughe trentini della Prima Guerra Mondiale. Oltre a questo, ci sono due esempi o due o tre esempi esposti, sono i primi libri, altre iniziative di editoria legate alla storia della città, alla storia del Trentino, sempre però con un taglio memorialistico autobiografico, sono nate, diciamo, all'interno o ai margini del laboratorio, perché qualcuno che veniva poi, no, si è accorto di avere in casa magari 100 lettere scritte dalla Russia durante la campagna di Russia nella seconda guerra mondiale o da altre cose del genere, e allora con il nostro aiuto questo poi è confluito, questi materiali sono confluiti in collane. Quella è una collana del Museo della Guerra, che è una collana di memorialistica, dove ci sono due dei nostri amici, uno dei quali è anche morto, che hanno appunto seguito per un certo periodo il laboratorio e che grazie al laboratorio hanno recuperato, no, tirato fuori queste loro vecchie, le tracce, insomma, di questa loro esperienza, e si sono collocate lì. Ecco. Per cui, da questo punto di vista, il laboratorio è stato ed è, continua ad essere, insomma, un volano, ecco, di iniziative che non sono solo quelle del laboratorio, ma anche quelle appunto che si producono, no? Si generano ai margini del laboratorio stesso. Ecco. Ah, grazie. Sicuramente il successo di questo esperimento è dovuto al fatto che negli anni 70-80 appunto ci sono stati questi storici che avevano una formazione professionale, però una passione politica e sociale tale per cui hanno fatto la scelta di non incanalarsi magari nel gregge accademico, come avrebbe detto Cesare Battisti, ma di sporcarsi le mani, diciamo così, fra virgolette, proprio con le persone di cui volevano fare la storia, insomma, no? Questa è stata una cosa molto importante, una coincidenza generazionale importante. L'altro elemento importante è sicuramente, ad esempio, l'uso delle nuove tecnologie, cioè il fatto che le nuove tecnologie consentono di raccogliere il documento, restituirlo Sì. immediatamente al proprietario e digitalizzarlo Sì, lo facevamo e anche con le vecchie tecnologie, archiviarlo. Certo. cioè, anzi, stiamo sempre discutendo un po' su questo, ne abbiamo discusso anche qualche giorno fa, proprio perché le nuove tecnologie spesso sono molto più effimere e pericolose che non le vecchie, perché con le vecchie, noi la riproduzione del documento fotografico lo facevamo attraverso la fotografia. Quindi era un lavoro fatto in casa, no? Cioè fra amiche, no? E nel senso che la fotografia riproduceva la fotografia e noi avevamo in casa una copia praticamente, una copia su carta, ma poi una copia su pellicola, che voi sapete ha lunga, lunga vita, no? Oggi invece è pericolosissimo quello che stiamo facendo, perché per comodità e anche per questione di costi, noi raccogliamo questo materiale, lo scannerizziamo, lo mettiamo su dischi, su disco, su CD, e poi il CD oggi è garantito soltanto per 10 anni. No? E voi sapete che è uno dei grandi problemi, delle grandi emergenze degli archivi, dei grandi archivi. Perché tutti stanno mettendo su CD e mi piacerebbe, no, capire, cioè, garanzie ci sono? Sì, no, e nel momento stesso in cui tu metti su CD queste cose, devi porti il problema della fine che potrebbe, la fine che potrebbero fare, cioè della precarietà del supporto sul quale le metti. No, è un problema, lo so, per esempio, noi abbiamo raccolto moltissimo materiale cinematografico, anche amatoriale. Ecco, un'altra cosa che non ho detto, vabbè, insomma, era anche immaginabile. Non è così frequente come la fotografia, ma per la Seconda Guerra Mondiale e dopo è molto frequente. Lo stiamo trasferendo tutto su un supporto digitale, no? Il migliore che c'è. Digicam. Anche lì, la garanzia che ti danno è di 10 anni, no? Che è una cosa. E poi devi farlo almeno in 2 copie, ma stai attento che il secondo CD non sia della stessa partita del primo, perché magari è una partita difettosa e quindi hai lì 2 dischi difettosi. Cioè, voi capite che no, è tutto. Beh, non vorrei dire che è un grande inganno, insomma, ma sarei quasi tentato di dirlo. Mentre noi con la fotografia una volta, no, andavamo molto più sul sicuro da questo punto di vista. Ecco. Quindi sì, noi utilizziamo le nuove tecnologie, per carità, no? Perché beh, è più comodo, più svelto, no? Meno costoso, eccetera, ma senza essere poi, no? Farsi illudere più di tanto da questi nuovi mezzi. Ecco. Questa però è una cosa che aiuta molto perché supera il problema, ti do Ah, ma l'originale. non c'è. No, l'originale devono dartelo comunque, no? Perché insomma, se tu vai da prestatore di 80 anni, non è che guarda, te lo metto io su, te lo metto mio adesso il CD, cioè non sa neanche. E allora ti dà la fotografia, mentre una volta la passavamo al fotografo che faceva una copia fotografica, adesso arriva direttamente al laboratorio, lì la scannerizziamo, poi la restituiamo, ma l'originale no, anche perché. Se noi dopo vogliamo andare in stampa con questa fotografia, dobbiamo comunque avere la garanzia che sia scannerizzato, insomma, ad alta risoluzione, perché sennò poi non sarebbe inutilizzabile. Ecco, e quindi, insomma. Come vanificato? Ah, no, non è detto che scompare. No. No, è beh, molto semplice. No, può essere che duri di più. No, la cosa che dicono di fare è, prima della scadenza di 10 anni, una nuova copia. Sì, sì, sì. Sì, sì. No, no. Io sto seguendo un seminario che si svolge in 2 sessioni, una si svolge i primi di marzo, una si svolgerà la settimana prossima a Milano, alla Fondazione Feltrinelli, proprio sugli archivi digitali, e uno dei problemi proprio questo è la migrazione continua, no? Cioè l'obsolescenza del supporto, che è sempre più frequente. Ecco, allora, un po' una volta c'erano gli archivisti, no? I bibliotecari che raccoglievano documenti e libri. Adesso ci sono questi archivisti che si sono specializzati in documenti digitali, che sono proprio sveglissimi in questo settore, che devono garantire la cosiddetta migrazione, no? Da un supporto all'altro. Dicevo prima quando Valeria inseriva la cassetta, no? Chissà se fra 10 anni avremo ancora un lettore di quelle cassette. Noi le mettiamo in digitale per esempio Ecco. questi file Sì, e beh. poi ci sono anche dei metodi, lasci una traccia, descrivi il sistema usato e poi insomma si riuscirà a leggerlo con altri Vi ricordate il film Il Dormiglione con Woody Allen? Quando Woody Allen si sveglia 200 anni dopo il 1970, ecco, lui è ancora lì alla mentalità del 70, 200 anni dopo e ha problemi di compatibilità con gli usi e i costumi. Ecco. In effetti lasciare lì ad esempio un'audiocassetta come questa in un magazzino, ecco, e pensare che fra 50 anni possa ancora essere utile è una cosa assolutamente inutile, però si tratta di garantire appunto la migrazione, insomma. E ci sono ormai anche ditte che professionalmente si occupano di questo, nel senso che biblioteche e archivi affidano i loro patrimoni a queste ditte e queste ditte si fanno pagare per conservare questo patrimonio e per garantire la continua migrazione su standard che siano appunto leggibili in ogni momento. Scusi, ma questo non garantisce, diciamo, la sicurezza dell'informazione, nel senso che se io ho una foto e me la metto su una mia lastra, me la tengo lì, so che ne ho fatta una, è quella e sono sicuro. Questa migrazione può uscire dalle intenzioni originali, nel senso che può essere copiata, non so dove, non so da chi, alterata, non so dove andrà a finire. Alterata. Infatti abbiamo dei problemi, sentivo un servizio al CEDER, dove addirittura delle immagini molto, diciamo, che dovrebbero essere protette, scivolano anche tramite internet, vanno a finire chissà cosa, chissà quale archivio, cioè, e non è più controllabile. Quindi ecco, c'è tutto un problema di diritti d'autore, sì, sì, un problema, esatto, della privacy, e questo è tutto un discorso molto pericoloso. Se intervengo a questo proposito, quelle linee guida che dicevo prima, a cui facevo riferimento, prevedono anche un watermark, lo chiamano così, che è una, come la nostra filigrana sulle banconote, è un timbro che appare come sfondo di ogni singola immagine. Questo dovrebbe garantire l'autenticità di un'immagine, indicare l'autore, il copyright, e quindi ci sono dei criteri e anche una garanzia per lo storico che questa fonte sia veritiera, insomma, che non sia un'immagine truccata e mutata. Quindi questi problemi sono chiaramente discussi quotidianamente da comitati internazionali. C'è stato l'anno scorso un convegno che a Bolzano, anche a questo proposito, c'è una commissione europea che sta aggiornando continuamente delle linee guida per la protezione di queste immagini. Quindi io mi sento di assicurare, ecco, che laddove vengono fatti degli interventi di questo genere dalle strutture, dagli enti pubblici oppure appunto da istituzioni comprovate nella loro serietà, questi problemi sono, tra virgolette, evitabili, perché c'è una cura dietro nella volontà di seguire delle linee, anzi più che la volontà, l'obbligo di seguire delle leggi e delle normative. E poi anche le liberatorie, immagino che sia anche questo un problema, perché quando io pubblico una immagine devo avere comunque il consenso del proprietario, e devo sapere bene chi è il proprietario, perché noi abbiamo delle persone che propongono degli archivi fotografici, però in realtà non si sa chi sia il proprietario di questa foto, chi l'ha scattata e se effettivamente lui può garantire la libertà, cioè la liberatoria per pubblicarla, magari sono riprodotte delle persone che in realtà non hanno nessuna voglia di comparire in quella circostanza in compagnia di certe persone. Immagino. A volte ne abbiamo sì, sì, paradossalmente è facilissimo mettere in circolazione queste cose, però noi abbiamo dall'altra, ecco, come biblioteca noi abbiamo avuto questo, ci siamo incontrati con questi problemi. Bisogna trovare una linea guida. A me fa piacere sentire quell'esperimento di Rovereto, l'esperienza loro, perché ecco, io vorrei organizzare una visita. C'è la signora. Una cosa molto importante. Sì, sì, sì. Qualche altro laboratorio di storia, o il vostro è un unico? Ma io questo... In Italia, in Europa? Non credo che sia. È il migliore. Detto così, con sé. Il vostro brevetto non è stato riprodotto? Ad esempio, l'archivio provinciale? No, adesso, al di là degli scherzi, ma...